Slalom. Flashback. Corrari che va e il Puglisi che arriva, consigli commerciali e poi partiamo con la musica firmata Sla. In diretta su CRM Happy Radio va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. 18 marzo 2013, buongiorno a tutti da Francesco Puglisi, questo è Slalom, trasmissione che vi terrà compagnia sino alle ore 13 in diretta su CRM, la radio che potete seguire anche tramite il nostro sito internet, che a tal proposito ve lo ricordo, che è www.crmepiradio.it. 0921 92 32 92 335 56 37 251 sono i nostri numeri telefonici che vi permetteranno di fare le vostre richieste e anche i vostri saluti. Inoltre vi ricordo che andando su Facebook potete diventare fan della nostra pagina, cercate quindi CRM Happy Radio e cliccate sul bottone mi piace. Partiamo subito con la musica, questa è fresca fresca dell'ultima edizione della canzone italiana di Sanremo. È un duo già collaudato, lei è Simona Molinari, molto bella, e lui è Peter Cincotto, un bravo pianista. Hanno presentato La Felicità e questa mattina come primo pezzo di apertura. Ho fatto errori che ripensandoci non farei, ma questo mondo, dimmelo tu, chi non sbaglia mai. Ah, tutta colpa di quell'attimo di gelosia, io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po', ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua, io dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia. Poi che cos'è? Di fatto sono sola qui, sono qui senza di te. Vorrei tornare indietro, amore, aspetta, lo so che ho sbagliato e ti chiedo scusa, amore, io per te farei di tutto. Iniziato con una canzone che è proprio l'inno a stare bene, ad avere tanta felicità, perché è quella che fa muovere un po' tutto in una famiglia, in un gruppo di amici, anche quando si vive tranquillamente, anche quindi a radio, se non c'è la felicità, a che cosa serve venire a fare un programma? E noi speriamo di trasmetterlo anche a voi. Marco Mengoni, L'Essenziale. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare. Beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi, di far la guerra, ambire poi la pace. E nel silenzio mio, annullo ogni tuo singolo dolore, per apprezzare quello che non lo sapevo. Scegliere. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Accetterò un altro errore di valutazione, sono in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero poche stupide. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. Mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini, ma tornerò all'origine, torno a te che sei per me l'essenziale. Marco Mengoni, il personaggio che comunque è andato in auge grazie comunque ai Talent Scout, ma soprattutto grazie a questa vincita di Sanremo. È arrivato il primo, è stato molto votato dai teenagers, ma comunque adesso Utunz gli dà ragione del successo, perché comunque è ai vertici delle canzoni più scaricate tramite questo portale. Continuiamo ancora con la musica di casa nostra, questo è Zucchero con Love is All Round su CRM Happy Radio. L'ho visto c'è oltre le stelle, acceso in me. L'ho visto in terra, l'ho visto in te, l'ho visto dove, visto dove. Love is, love is all around. L'ho visto altrove, l'ho visto qua, nel sole giallo, io l'ho visto già. L'ho visto al buio con gli occhi tuoi, quando i miei occhi erano stanchi ormai. Love is, love is, it's all around. Love is, love, it's all around. Ballando tra le rovine, sulle macerie, cercando amore fino alla fine, tra le nostre miserie. Love is all around. L'ho visto nero, l'ho visto nu, credevo allora che fossi tu. Ho visto un sogno, sembrava vero, ci credo ancora e ancora spero. Fino alla fine, tra le nostre misere. Non so se vi è successo, comunque credo di sì, di aver fatto un colloquio di lavoro e si parla sempre di sensazioni di pelle sia da parte di chi seleziona che da noi che dobbiamo andare a scegliere l'azienda se sia veramente l'azienda giusta per il nostro futuro. Ma la cosa strana viene dalla Cina, infatti una società, una compagnia aerea cinese, la Hainan Airlines, ha selezionato il personale basandosi sull'odore delle ascelle. Infatti i candidati dovevano togliersi camicia e maglietta e farsi annusare da un addetto della compagnia aerea e tutti i candidati che emanavano odore venivano scartati. Ovviamente erano anche richieste altre caratteristiche, tra cui la visione perfetta, l'ottima conoscenza della lingua inglese e comunque un'altezza di 1,87 m. Stai ascoltando Slalom su CRM Happy Radio. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Here I am waiting, I'll have to leave soon. Why am I holding on? We knew this day would come, we knew it all along. How did it come so fast? This is our last night, but it's late and I'm trying. When the daylight comes, I'll have to go. But tonight I perfection in my arms, so beautiful. The sky is getting bright, the stars are burning out. Somebody slow it down, this is way too hard. 'Cause I know when the sun comes up, I will leave. This is my last glance that will soon be memory. And when the day via già la prima mezz'ora di questa trasmissione. Vi ricordo che questo è Slalom, la rubrica musicale che va in onda su CRM Happy Radio ogni lunedì e venerdì dalle 11 alle 13. Adesso consigli commerciali e poi ripartiremo con la musica targata CRM. Slalom Flashback. Lights in 1976, quando Giorgio Moroder cantava questa canzone. Una bella notizia presa da internet, anche curiosa e divertente fra le altre cose, ed ecco che arrivano in Francia e saranno distribuite in tutte le parti del mondo le mutande profumate. Arrivano quindi le mutande da uomo profumate grazie a microcapsule incastonate nelle fibre tessile del cotone. Permetterà, durante che si cammina, sprigioneranno un piacevole odore di rosa. L'innovazione è unica al mondo, ad alto tasso tecnologico, dice Germain Gulper, fondatore del marchio Slip Française. Abbiamo quindi creato il prodotto per l'uomo elegante e attento al comfort. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. So lady, the wonder will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If the great wish

Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Occhi grandi da bambino che ti scrutano nel cuore, un sorriso accattivante è il contagio dell'amore. La sua casa è la strada dove semina speranza nella vita di chi è solo, senza pace né futuro, se ciascuno fa qualcosa, se ciascuno fa qualcosa, se ciascuno fa qualcosa, questo mondo cambierà. E nel giorno della vita che il dono si fa eterno, in quel sangue innocente come quello di Gesù. Ciascuno fa qualcosa, se ciascuno fa qualcosa, se ciascuno fa qualcosa, questo mondo cambierà. Come seme germogliato nella terra della madre, se la vita è immolata, ogni cuore invaderà. Se ciascuno fa qualcosa, se ciascuno fa qualcosa, ciascuno fa qualcosa, questo mondo cambierà. Se ciascuno fa qualcosa, se ciascuno fa qualcosa, se ciascuno fa qualcosa, questo mondo cambierà. Se ciascuno fa qualcosa, se ciascuno fa qualcosa, se ciascuno fa qualcosa, questo mondo cambierà. Salutiamo padre Sergio Natoli che ci ha mi ha omaggiato di questa splendida canzone dedicata a Don Pino Puglisi. Infatti il 25 maggio ci sarà la beatificazione di Don Pino Puglisi presso lo stadio Renzo Barbera in Viale del Fante alle ore 10:30. Ma prima di questo ci saranno degli incontri che la popolazione è invitata a partecipare tramite la diocesi di Palermo. Ci saranno dei seminari che si svolgeranno il 22 marzo del 2013 alle ore 16 nella comunità vocazionale dove Don Pino Puglisi era direttore spirituale. Un secondo incontro il 10 e l'11 maggio alle 20:30 presso la parrocchia Immacolata Concezione a Godrano. Il terzo incontro si svolgerà invece con gli ex allievi dell'Istituto Roosevelt e con gli studenti della LUMSA, dove padre Pino Puglisi fu assistente spirituale, e con i familiari proprio del sacerdote defunto. E inoltre, come già detto, il 25 maggio vi sarà la beatificazione di Don Pino Puglisi presso lo stadio Renzo Barbera in Viale del Fante alle ore 10:30. Io credo che sia importante partecipare, soprattutto per il messaggio che sia la canzone ma tutto il personaggio di Don Pino Puglisi ha voluto dare, cioè nel senso che qualcuno deve fare qualcosa. Slalom Flashback.

Allora, come stavamo dicendo, il migliore amico dell'uomo è indubbiamente, da che mondo è mondo, è sempre stato il cane, un animale che effettivamente in alcuni casi prende molto la sembianza del padrone, anche caratterialmente, e quindi un po' troppo indipendente dal proprio padrone. In televisione si vede spesso comunque programmi proprio dedicati agli amici a quattro zampe, dall'Arca di Noè a Cercasi Cucciolo, a Scuola di Cani, il Capobranco Sei Tu, e poi abbiamo Parrucchieri per Cani e Top Dog. Insomma, è stato e continua ad essere l'animale che per antonomasia è quello che un po' riempie le case degli italiani. Pensate un po' che circa il 50% delle famiglie italiane possiede un animale domestico, che nella maggior parte dei casi è proprio un cane. Io sollecito anche una cosa: ci sono tanti cani abbandonati che potete prendere, potete adottare all'interno dei canini municipali, ma soprattutto perché, oltre a fare un gran bene al nostro caro amico a quattro zampe, lo togliete da una situazione veramente difficile. Stai ascoltando Slalom su CRM Happy Radio. You Slalom. Flashback. Il tormentone del momento che sino ad ora ha coinvolto oltre 25 milioni di utenti in tutto il mondo, adesso Ratsley si prepara a diventare una vera e propria gara a colpi di lettere e parole da creare in un torneo che prevede testa a testa per coloro che sono iscritti. Partecipare è semplicissimo ed è gratuito, basta collegarsi al sito Ruzzoliamo, compilare il form di registrazione e scaricare l'applicazione relativa al campionato nazionale di Ratsley. Quindi a ciascun giocatore verranno consegnate 3 vite che gli serviranno per sfidare gli avversari e per i più veloci anche nell'iscrizione, ovvero che effettueranno l'iscrizione entro il 3 marzo, saranno riservate 10 vite. La gara, che avrà inizio quindi il 4 marzo, quindi è già partita, si svolgerà secondo un semplice meccanismo. Gli sfidanti potranno aggiudicarsi un passaggio di livello in caso di vittoria, mentre in caso di sconfitta perderanno la vita. Continuiamo ancora con la musica, ritorniamo a casa nostra con la musica italiana. Questo è sicuramente uno dei personaggi più in auge del momento, è Cesare Cremonini. Lo sentiamo con Una nuova stella di Broadway. Lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz,

Slalom. Flashback. Quando la Climax Blues Band cantava I Love You, che questa mattina, grazie soprattutto a una vostra richiesta, noi abbiamo voluto riascoltarla. Salutiamo fra le altre cose tante persone che ci ascoltano da fuori Cefalù, da Palermo, dalla provincia del Messinese, da Santo Stefano, da Capodorrando. E a questo punto sono arrivati i saluti per Francesco Puglisi, che termina qui oggi la trasmissione di Slalom. Vi auguro buona vita soprattutto, e vi auguro un buon proseguo dei programmi di CRM, che saranno adesso con varie novità, ma soprattutto con tanta buona musica. Noi avremo il piacere di risentirci venerdì, quindi apriamo sempre la settimana, la chiudiamo sempre dalle 11 alle 13 e sempre successiva alla Patrizia Curreri, che anticipa un po' le trasmissioni dalle 9 alle 11. Come dico sempre io, Curreri va e Puglisi arriva. Da Francesco Puglisi è tutto, vi auguro buona vita e buon proseguo delle trasmissioni di CRM e Happy Radio.